Prima di iniziare a leggere il Vangelo, vi ho detto il Signore sia con voi e vi ho guardato in faccia. E mi è venuto un desiderio fortissimo di predicarvi, per l'amore al Vangelo e anche per l'affetto verso di voi cristiani. Perché in effetti si viene a messa la domenica per una serie di motivi, ma posso riassumerli in due fondamentali. Primo, per pregare, anzi per la verità, per partecipare alla preghiera di Gesù Cristo e della Chiesa, della quale noi siamo figli. È la Chiesa che prega, è Gesù Cristo che prega e noi ne partecipiamo. Per questo c'è un abisso tra le preghiere che diciamo mattina e sera, che è roba nostra, e la preghiera che invece facciamo con la comunità in cui Cristo è presente. Il secondo motivo è per imparare la nostra fede, per l'insegnamento della fede. Per questo, prima che cominciasse la proclamazione delle tre letture bibliche, io vi ho suggerito: provate a stare attenti alle singole frasi, perché io ve ne predicherò solamente una. In effetti, quando il sacerdote viene a predicare, non improvvisa mai, si prepara, mangia la parola di Dio per darvi il suo latte, come fa una madre. E io anche questa volta sono rimasto colpitissimo da una frase, la conoscevo già, è 50 anni che sono prete, però ogni volta che la leggo mi tocca e ho detto: oggi predicherò questa. La frase è questa del Vangelo. La gente dice a Gesù: che cosa dobbiamo fare? Tu ci dici di compiere le opere di Dio. Bene, cosa dobbiamo fare? E Gesù risponde: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Dio ha mandato. E uno rimane stupito, perché dice: che opere dobbiamo fare? E uno si aspetta un elenco di cose da fare, no? Provate a chiedere in giro, in casa vostra o a degli amici: per essere cristiani cosa bisogna fare? Avrete tante risposte. Comportarsi bene, non fare niente di male, quando si può fare del bene, pregare e così via. Ne sentirete tante. Temo che sia difficile che uno vi dica: guardare in faccia Gesù e lasciarsi innamorare da Gesù. Non so se vi diranno così. Tant'è vero che anche i discepoli non l'hanno capita. Allora gli dissero: va bene, ma tu che prova ci dai, che segno ci dai perché crediamo in te? E allora Gesù dice: io stesso e il mio corpo. Vedete, cari amici, se io dovessi singolarmente chiedervi la stessa cosa, saremmo convinti che la nostra fede è guardare in faccia Gesù, tanto da essere catturati. C'è stata della gente nella storia che ha guardato in faccia a Gesù, si è innamorata, è andata persino a farsi sbranare dai leoni. Oppure ancora oggi passa anni nelle carceri, nelle patrie galere di coloro che avversano Gesù Cristo e lo combattono, oppure danno la vita pur di non tradire la loro fede in Gesù Cristo. Se ti fai della mia fede ti risparmio la vita, ti dice l'islamista. No, e c'è gente che si lascia sgozzare pur di non tradire la fede in Gesù Cristo. Io ho già finito la mia predica, amici. Vi invito a fare l'esame di coscienza. Come tu pensi di aver incontrato il volto di Gesù dentro di te? Come dobbiamo fare? Seguire me stesso, dice Gesù, e la mia parola. L'Eucaristia, amici, il corpo di Cristo. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita eterna. Signore, dacci sempre questo pane. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete. Io ho visto per 10 anni questa chiesa chiusa tutto il giorno. Passavo sulla statale e dicevo, ma chi sarà il parroco di quella chiesa lì che è sempre chiusa? Adesso è aperta dalle 7 del mattino alle 7 di sera ed è sempre vuota. Lo so perché ci passo delle ore qui dentro. Ho questa fortuna di abitare qui accanto alla chiesa, cari amici. Venite, venite al sole di Gesù, al sole del tabernacolo. E vi ripeto quello che ho già detto altre volte, ma anche l'insegnante a scuola e anche la mamma a casa ripete lo stesso insegnamento, sempre, sempre. Chi viene davanti al tabernacolo è come se andasse in spiaggia. In che senso? Viene a prendere il sole. Tu quando sei in spiaggia, che tu stia lì col collo tirato come fanno le donne per non avere rughe sotto la gola, che tu stia lì come gli uomini che giocano a bocce, che leggono il giornale, oppure stia lì come i ragazzi e le ragazze che parlano di niente ma continuano a sorridere perché si innamorano, che tu stia lì passeggiando, che tu qualsiasi cosa tu faccia in spiaggia, il sole ti scalda, persino se dormi, perché la capacità di scaldarti non sta in te e nel tuo atteggiamento, ma sta nel sole. Venite al sole del tabernacolo, amici. Siete stanchi, riposatevi. Ti viene ad addormentarti, lasciati andare. Vuoi portare un libro da leggere, vuoi portare il Vangelo, vuoi dire il rosario, vuoi fermarti e far passare uno per uno il volto delle persone che ti sono care per raccomandarle a Gesù. Qualsiasi cosa tu faccia, non è importante quello che tu fai per scaldarti al sole di Gesù. È importante che tu stia lì. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai.